Quindi io in questo momento sono un pochino più intelligente di Deborah Rosciani e chiudo così. E con questa Mezz'ora di passo esatto. sostenuto al giorno toglie la caldana di torno? E noi Mi abbiamo tirano le intervenuto. gambe, però. Vedi, però sei molto intelligente da qualche istante a questa parte. Per cui adesso, con tutto questo mare di intelligenza, possiamo salutare i nostri ascoltatori. Andiamo a prenderci un caffè. La pancia borbotta. Sed panciam borbottam, non so. Cuore e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. E niente, è proprio arrivato, eppure fino a ieri non sembrava neanche autunno. E invece qualcosa è cambiato, Deborah. Ormai da un po' è cambiata stagione, è cambiata l'ora, è cambiato il clima e il nostro corpo prende nota di tutti i cambiamenti. Ah, sarà per tutti questi cambi che mi sento un po' strana, anche un po' nervosa. Se proprio devo dirtela tutta, stamattina mi sono svegliata anche un pochino acida, però mi conforta il fatto che mi dici che sono questioni stagionali e non caratteriali. No, stai tranquilla, tu non sei affatto acida, sei solo un po' impressionata e segnata da questi cambiamenti. Però acidità e bruciore sono due parole che in autunno vanno molto forte fortissimo. E quindi Deborah, tu sei proprio allineata alla stagione. Standardizzata la stagione. È vero, professor Gasbarrini è in linea con noi. Buongiorno, professore. Buongiorno a voi. Buongiorno. Intanto la presento, è ordinario di gastroenterologia all'Università Cattolica e direttore della divisione di medicina interna e gastroenterologia al Policlinico Gemelli. Professor Gasbarrini, acidità e bruciore sono due parole che in autunno vanno forte. Ah sì, non c'è dubbio. Beh, da una parte forse perché sta arrivando il freddo, la pioggia, l'estate si allontana sempre più. E dall'altra parte perché è ovvio che possono essere il primo segno di una cattiva digestione. Ricordiamoci sempre che l'esofago e lo stomaco sono la prima porta degli alimenti per il nostro organismo e spesso quando funzionano male o quando funzionano in maniera eccessiva possono dare quei tipici disturbi di acidità che spesso ci accompagnano a volte dopo mangiate un po' più impegnative o dopo il bicchiere di troppo. 800 24 0024, se vi sentite un po' acidi, se volete saperne di più, tutte le vostre domande troverete risposte chiamando il nostro numero verde. E invece da questa parte, dalla parte dei denari, abbiamo lo spread che ci torna su. Nicoletta, ultimamente anche lui ha avuto un po' di reflusso e è tornato a salire settimana scorsa a 250 punti base. Ti dice qualcosa questa cifra? No, mi dice qualcosa, ma mi dice soprattutto, e temo, che tu a questo punto mi avrei chiamato Lupotto, il mio professore di risparmio. Esatto, questa settimana ti tocca, la scorsa ti abbiamo concesso una tregua, torna la scuola di risparmio, quindi preparati. Però c'è anche una bella operazione di mercato autunnale da commentare che interessa proprio i piccoli risparmiatori, anche quelli come te. Parte domani la quinta emissione del BTP Italia. Ne chiediamo conferma a Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Buongiorno. Buongiorno a voi. Domani, come anticipato, parte la quinta emissione del BTP Italia, il titolo di Stato pensato al Ministero del Tesoro proprio per i piccoli risparmiatori. Benissimo, se avete delle domande, lo dico naturalmente agli ascoltatori su questa nuova tranche, se avete altre curiosità sul mercato obbligazionario, spread e dintorni, chiamateci all'800 24 00 24, dalle 11.45 parleremo di tutto questo. Quindi Deborah, sintomi e investimenti d'autunno, ed è proprio con la parola autunno che oggi noi vogliamo giocare con i nostri amici che ci stanno seguendo da casa. Eh sì, allora sapete che a Milano è stata inaugurata la mostra dedicata ad Andy Warhol, avete presente quello dei ritratti di Marilyn Monroe oppure quello delle zuppe? Se volete visitarla, noi oggi vi regaleremo molti biglietti per tutta la settimana, oggi ne abbiamo a disposizione 6. E le abbineremo alle 6 foto più belle che descrivono il vostro autunno, potete postarle sul nostro profilo Facebook Cuore Denari Radio 24 oppure inviarcele all'account Twitter o all'indirizzo email di Radio 24, Cuore Denari, chiocciola Radio 24. Questo è semplice, lo sapete a memoria. Esattamente. Allora, vinceranno le foto più belle, le sei foto più belle, a nostro insindacabile giudizio, nostro e quello dei nostri assistenti. Però fate attenzione, perché dovete inviarcele entro le 12:30. Domani vi comunicheremo i nomi dei nostri ascoltatori a cui abbiamo abbinato i biglietti. Vi contatteremo anche direttamente sul canale che avete usato. Voi quindi iniziate a mandare le foto e noi iniziamo con la nostra puntata. Essere e benessere. Che viaggio strano, quando tornerò, poi lo rifarò, poi lo rifarò. Così lontano, non sono stata mai, non sono stata mai, già ripartirei. Molti ne soffrono, ma pochi se ne occupano e più sopportano e convivono tortocollo con bruciore di stomaco, agitità, rigurgito. Sono questi i sintomi classici del reflusso gastroesofageo, malattia che in questo periodo dell'anno sembra risvegliarsi. Perché, professor Gasbarrini, per molti di noi l'autunno è acido? Beh, diciamo che non c'è dubbio che la stagione, diciamo, il fatto che sta arrivando il freddo, che aumentano le piogge, sono sicuramente importanti. C'è poco da fare nel periodo autunnale, in quello invernale, ma soprattutto nell'autunnale si tende a stare più in casa, quindi si fa meno movimento, si mangia di più, stare intanto in casa spesso determina mangiare di più, smangiucchiare durante la giornata. Spesso durante le serate, le giornate fredde si beve anche di più. Gli alimenti sicuramente sono più pesanti, quelli invernali, no? Se noi pensiamo all'estate, dove si tende a mangiare molta frutta, verdura, pesce, per in qualche modo alleviare il caldo, d'estate e d'inverno sicuramente questi alimenti sono meno presenti. Penso a una classica, no, domenica con castagne, della cioccolata, del vino rosso. Diciamo che tutto questo fa sì che le patologie dell'esofago e dello stomaco siano più presenti, e non c'è dubbio che l'acido e l'acidità, in senso di bruciore retrosternale o di bruciore o dolore nella zona dello stomaco, quello che noi chiamiamo epigastrio, sono sicuramente più frequenti. Quindi autunno, tempo di castagnate, Deborah, ma anche di digestione pesante e di reflusso. Mi è venuta l'acquolina in bocca e anche un po' di reflusso contemporaneamente. Perché il professor Gasbarrini è un buon gustaio, ha detto castagne e cioccolato si sposano perfetto, e vino rosso. Ecco, e poi dopo la colpa è nostra se ci viene il reflusso, con tutte le sue indicazioni. 800 24 00 24. Professore, il reflusso è un disturbo molto comune, ma che spesso affrontiamo con un po' di leggerezza. Alcuni di noi ne soffrono senza saperlo, altri tendono a banalizzare i sintomi, ma c'è anche chi decide di affrontarlo con i mezzi propri, modificando lo stile di vita, assumendo farmaci antiacido. Allora, insieme a Deborah abbiamo pensato che se questo è un disturbo che ritorna spesso in autunno e che è così difficile, no, capire esattamente che cosa è giusto fare, era opportuno fare chiarezza. Allora, sentiamo la nostra scheda che noi oggi abbiamo preparato utilizzando un questionario che è stato ideato da un gruppo di ricercatori americani. Il professor Gasbarrini la conosce bene, si chiama Richter Scale, vero? Esattamente, sì. E ci permette di capire se il reflusso può essere un nostro problema, almeno in autunno. Andiamo a sentirla. Soffri spesso di questi sintomi? Un senso di fastidio dietro lo sterno, come se qualcosa risalisse dallo stomaco. Una sensazione di bruciore in fondo alla gola. Una sensazione di amaro in bocca. Questi sintomi si presentano spesso dopo pranzo? Hai l'impressione che gli antiacidi diano solo un sollievo momentaneo ai sintomi? Stai prendendo un farmaco per il bruciore di stomaco o pirosi, ma i sintomi non passano? Se avete risposto sì a due o più domande, potreste avere un problema di reflusso. 800 24 00 24, questo è il nostro numero verde, non ve lo farà passare, ma sicuramente vi darà delle indicazioni preziose. Abbiamo anche naturalmente un numero per inviare i messaggi, 349 238 6666, oppure potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Per avere una diagnosi certa è indispensabile rivolgersi al proprio medico, ma nel frattempo, professor Gasbarrini, quali sono le indicazioni importanti? Che cosa dobbiamo sapere per evitare di fare pasticci? Allora, innanzitutto la grande differenza, la scala che abbiamo visto prima è una scala molto bella e molto importante, sicuramente ci può indirizzare, però ricordiamoci sempre che dietro ai sintomi, reflusso, acidità, ci possono essere delle malattie. Quindi il primo concetto è: se noi non abbiamo mai sofferto e cominciamo ad avere questi disturbi, innanzitutto rivolgersi al proprio medico, al proprio gastroenterologo, per escludere che non ci sia una patologia dietro più importante. Sì. E qui ovviamente si apre, no, un mondo: gastroscopia, ecografia, tutti gli esami di valutazione. Ma una volta, diciamo, che abbiamo escluso, no, una malattia maggiore e sappiamo che siamo in qualche modo affetti da quello che noi diciamo la patologia stagionale o ricorrente, no? È chiaro che a questo punto bisogna evitare una cosa: bisogna evitare di tamponare la malattia con dei rimedi transitori o che la mascherino. Cosa voglio dire? Il prendere antiacidi, no? Gli antiacidi ormai si trovano dovunque, ognuno di noi sa i nomi dei principali antiacidi. E l'antiacido è chiaro che in tanti casi ti può coprire il disturbo, però l'antiacido ha un problema, che coprendoti il disturbo a volte ti fa peggiorare ancora di più la malattia che è alla base del reflusso. Quindi la cosa che bisogna tenere ben presente è che da una parte il vero rimedio di queste malattie è correggere lo stile di vita, cioè mangiare in maniera migliore, ricominciare il movimento, calare di peso, perché poi ci sono tante persone dove il reflusso è unicamente una conseguenza di un cattivo stile di vita e un sovrappeso corporeo. E gli antiacidi vanno presi, però vanno presi solamente per il minimo indispensabile. L'errore più grande che uno possa fare è prendere tutti i giorni e costantemente gli antiacidi per coprire una patologia. Questo è un problema, perché poi può determinare tanti disturbi nella digestione. Abbiamo Giuseppe che ci chiama da Salerno. 800240024. Buongiorno Giuseppe, benvenuto. Buongiorno, salve. Forse il professore ha già risposto precedentemente. Io prendo tutti i giorni, perché è consigliato per un reflusso, insomma, che ho, e per un'ernia iatale, prendo tutti i giorni il farmaco, l'esometrazolo. Adesso non so se questo può essere considerato un antiacido. Ecco, mi dicevano interrompa ogni tanto. Che significa questo? Che effettivamente tutti i giorni lo prendo, a parte i consigli che ha dato il professore, che cioè diminuire di peso, mangiare cibi, insomma, io già lo so i cibi che non posso mangiare, per esempio in particolare di sera, però io sul medicinale, insomma, volevo avere delle precisazioni, insomma. Grazie, professor Gasbarrini. Questa è una domanda veramente da mille punti, ma poi importante per il nostro paese. Calcolate che il farmaco di cui ha parlato prima l'ascoltatore appartiene alla categoria degli inibitori della pompa protonica, che sono sicuramente gli antiacidi più utilizzati, anche perché sono estremamente potenti e estremamente efficaci. Però questi farmaci hanno un problema: la digestione comincia dallo stomaco. Lo stomaco è questa grande centrale di acido che è assolutamente cruciale per digerire, la prima digestione di quello che noi mangiamo. Se noi blocchiamo l'acido con gli inibitori di pompa protonica, poi possiamo entrare in un loop, in una spirale, no? Di digestione non corretta, che in qualche modo poi può peggiorare sempre di più il reflusso. Quindi il concetto è: se questi farmaci vanno presi per brevi periodi di tempo. Esistono delle condizioni in cui si devono prendere costantemente, ma sono molto poche. Non c'è dubbio che nel nostro paese si fa un abuso di questa classe di farmaci, e molto spesso se ne fa un abuso per coprire il reflusso e l'acidità e permetterci anche di sgarrare. Quindi il concetto fondamentale: sano stile di vita, sano stile alimentare, ed evitare quelle patologie che sono quasi sempre la base del reflusso. Un altro concetto: ricordiamoci che l'intestino comincia a livello della bocca e finisce alla fine a livello dell'orifizio anale. L'intestino è un organo lunghissimo, 8-9 metri, quindi a volte una patologia dello stomaco può andare a mascherare una patologia di un altro organo. Ad esempio, chi ha malattie di verticoli del colon, che apparentemente non sono collegati, può avere un'alterazione della motilità che può anche emergere con un reflusso. Quindi attenzione, non copriamo altre malattie con gli antiacidi, ma andiamo a cercare la motivazione per cui abbiamo il reflusso. Insomma, cerchiamo di vederci chiaro. Professor Gasbarrini, è la donna di Denari che le parla, buongiorno. Quindi attento a lei, certo. Professore. No, ma in realtà stavo leggendo, spulciando fra i messaggi degli ascoltatori, e leggendone uno mi è venuto in mente appunto di farle una domanda. C'è un ascoltatore, Ugo da Milano, che ci scrive: perché quando mi avvicino a Milano venendo da Firenze mi viene acidità? E questo per arrivare a chiederle: magari ci sono delle situazioni circostanti a noi che magari non ci toccano direttamente, ma che possono provocarci questo disturbo? Leggere i giornali con tutte le cattive notizie che ci tocca appunto affrontare tutti i giorni, per esempio, può essere circostanza che porta ad un disturbo di questo tipo? Ma in qualche modo sì, è chiaro che mi verrebbe da dire che ad esempio uno che da Firenze va a Milano sta tante ore in macchina, quindi magari sta tante ore seduto, in qualche modo se non è un'ernia iatale questo può peggiorare il flusso, ma eliminando un problema posturale, beh, ricordiamoci sempre che esistono tante condizioni di reflusso, cioè di acidità, no, di bruciore retrosternale, e quando fai la gastroscopia non vedi nulla, ed è quella che noi chiamiamo esofagite da reflusso non eritematosa, che non ha un danno macroscopico. E molte volte sono determinate da un accesso di acido a contatto con l'esofago e in alcune condizioni, cioè una persona molto più sensibile, irritabile, che ha avuto una giornata di stress, può cominciare ad avere questo sintomo. Cioè in qualche modo la nostra soglia di sensibilità si abbassa e accusiamo prima il sintomo. Quindi non c'è dubbio che una vita stressante, un evento diciamo che in qualche modo ti innervosisce, può farti percepire di più questo sintomo. Professor Gasbarrini, il reflusso poi è una malattia un po' subdola, un po' perché ci mette in scacco quando decidiamo di affrontarla da sola, coprendola, come diceva lei, con dei farmaci, ma anche perché il reflusso può manifestarsi con dei sintomi atipici, quindi non soltanto con il bruciore, l'acidità, il regurgito, non a caso viene chiamata anche la malattia del tornar su, a proposito di spread. Ma con dei sintomi che non sembrano assolutamente collegati con la zona in cui noi sappiamo si manifesta questo reflusso. 800 24 00 24, ne scopriremo delle belle oggi, perché ci sono dei segnali che il nostro corpo ci manda che vanno indagati. Vogliamo ricordarli rapidamente, professor Gasparrini? Beh, diciamo che ci sono dei segnali strani, no? Uno di questi ad esempio potrebbe essere l'asma bronchiale, cioè ci sono persone che magari sono un po' soggette ad asma e hanno periodi di riacutizzazione dell'asma, il reflusso acido quando torna attraverso l'esofago può anche entrare nelle vie respiratorie e scatenare una crisi d'asma, o se no la laringite, ci sono persone che hanno difficoltà a parlare, in qualche modo afonia o disfonia, e spesso il reflusso può causare laringite, quindi disturbi alti, e poi ci possono essere disturbi anche della cavità orale, cioè il reflusso acido non è una patologia solo dello stomaco, della prima parte dell'esofago, ma può toccare anche distretti apparentemente non collegati. Abbiamo quindi raccontato anche questi sintomi un po' bizzarri, sintomi atipici. Lei ha già descritto in parte la persona che potrebbe soffrire di reflusso senza saperlo, ne ha già fatto tratteggiato l'identikit, ma ricordiamolo, è una persona sovrappeso, giusto professor Gasbarrini? È una persona sovrappeso, è una persona che ha un'alimentazione diciamo non regolare, poi sa, può essere anche una persona che ha un disturbo apparentemente non collegato, ad esempio l'ernia iatale è una patologia estremamente frequente, no? Nella popolazione, soprattutto nella popolazione di una certa età, essere portatore di un'ernia iatale in qualche modo ti può rendere soggetto al reflusso esofageo, perché ovvio là sotto c'è uno sfintere, no? Che si chiama sfintere esofageo, e questi organi possono non funzionare bene. O ci sono persone, ad esempio, che prendono farmaci, ci sono alcuni farmaci che possono alterare la funzione di questi sfinteri che tengono separato l'esofago dallo stomaco. Quindi tutta una serie di condizioni anatomiche che possono in qualche modo predisporti a sviluppare un reflusso gastroesofageo. Oppure anche da sostanze che ne riducono la pressione, quindi permettono al contenuto gastrico di ritornare indietro, come da una bottiglia senza tappo che venisse rovesciata, giusto? Assolutamente, assolutamente. Calcolate che nella nostra alimentazione ci sono tante sostanze che proprio in qualche modo o bloccano lo svuotamento dello stomaco, cioè l'acido rimane più tempo lì dentro, se ne produce di più, o alterano la funzione dell'esofago. Ce ne sono alcune classiche che poi sono quelle che noi togliamo, no, quando facciamo le diete. Le suggeriamo di eliminare il cioccolato, di eliminare le bevande fredde e gasate, di eliminare gli agrumi, perché gli agrumi sono assolutamente eccezionali, no? Però in qualche modo gli agrumi riducono lo svuotamento dello stomaco. Quindi diciamo sono alimenti che devono essere nella nostra alimentazione. Certo che se uno ha proprio un momento di grande acidità poi li dovrebbe eliminare. Certo. E poi non c'è dubbio, il caffè, le bevande alcoliche, il fumo, tutte queste condizioni, questi alimenti. La menta, adesso non è più stagione, ma le caramelle di menta, allora molte persone. Non sono a rischio perché non mi piacciono. No. Gianni da Treviso, buongiorno. Buongiorno a lei. Buongiorno, salve. La mia ragazza ha un'ernia iatale. È un periodo che soffre di tosse, è un reflusso. Da 20 giorni non riesce più a dormire perché c'è una tosse tipo le prime volte è anche svenuta. Lei prende Glaucosil, Poi siamo andati in farmacia, siamo andati al dottore, il dottore gli ha detto, io gli ha dato del gas Covid. Quindi insomma l'hanno curata con dei farmaci, Gianni, perché... Sì, sì, ma non ha visto anche risultato. No, siamo andati anche al discorso omeopatico, ma per calmare, pensavo ci fosse un po' di ansia, ma non ha funzionato niente. L'ansia, a cui faceva riferimento anche le preoccupazioni Deborah e anche il professor Gasbarrini. Professore, quindi è la tosse insospettabile, ma c'è questa tossetta, anche Deborah ha un... Ho un'amica a cui sono capitate queste situazioni con il proprio bambino, diverse polmoniti addirittura, fino a quando oltre 10 anni si è scoperto appunto che era un reflusso e con uno sciroppino ha curato questo problema, mai più problemi ai bronchi. Beh, voi dovete calcolare che l'acido dello stomaco è una sostanza incredibilmente potente, perché se pensiamo quando mangiamo una bistecca, no? Il primo processo di digestione lo fa proprio l'acido dello stomaco. Certo. È chiaro che se l'acido dello stomaco esce da lì, no? E va a contatto con l'esofago, con la laringe, con i nostri denti, con i nostri polmoni per troppo tempo, in quantità troppo importanti, può predisporre ad altre malattie. La tossetta, non la tossetta, la tosse secca, schizzosa, spesso è una manifestazione di reflusso che va a irritare la zona laringea. D'accordo? Perché c'è l'acido là dove non ci dovrebbe stare. Torneremo a parlarne nel corso della nostra trasmissione 800 24 00 24. Allora, prima dei mercati, però volevo solamente ringraziare tutti gli ascoltatori, e sono tanti, sono tutti appassionati evidentemente di Andy Warhol e vogliono andare a vedere la mostra di Milano che durerà per un sacco di mesi, quindi prendetevela anche me la comoda. Comunque ringraziamo Laura, Dianora, Carlo, Alberto e tanti ascoltatori che ci stanno mandando la loro foto. Roberto anche. Abbiamo Roberto, Judith, abbiamo un avvocato, Marco, che ci ha scritto poco fa, insomma tantissimi, Filippo, e continuate a mandarci. Non è che ci ha scritto per noi, l'avvocato. No, però c'è qualcuno. Teniamolo lì. No, posso dirti che questo avvocato ci ha scritto una mail molto carina che spera che questa immagine poetica che lui ha scattato nel giardino della casa di sua mamma sortisca un effetto positivo anche su di noi. Magnifico, bravo. Cuore e denari. Allora, l'acida è quella che è sempre un po' nervosa, è quella che non gli va mai bene niente, è sempre quella che... Non si può fare questa, eh? Ci sono delle regolamentazioni da rispettare, eh? Capito? È mai vietato, eh? Sempre... Ci sono delle regole, capito? Magari, non so, suo marito... Tesoro, stasera ho una cena di lavoro. Non penserai mica di uscire vestito così stasera, eh? Dammi la camicia che te la stiro, dammi le orecchie che te le stiro, eh? Insomma, abbiamo sentito che profilo ha la donna acida, probabilmente soffrirà di reflusso, Nicoletta, anche, che ne pensi? Anche, un reflusso, acidità, sente questo bruciore. E lo trasferisce tra le persone appunto che le stanno attorno. Autunno, una stagione acida e per alcuni di fuoco, e per alcuni intendiamo anche qua gli investitori che guardano a quello che succede in Italia, lo spread è sempre alto, questa mattina 242 punti, poi cercheremo di interpretare anche questo livello e la vita che a volte ci costringe a mandare giù notizie indigeste. Loro, Nicoletta, tornano su. Ti piace la mia interpretazione del tema Deborah, di oggi? Perfetta. Mi piace molto e hai ragione, perché come anticipato anche il professor Gasbarrini, il reflusso gastroesofageo si può riscontrare anche e soprattutto nelle persone particolarmente sensibili allo stress, diciamo così. E quindi nervosismo, rabbia repressa, che poi Deborah è il classico boccone amaro, no? Che non riusciamo a mandare giù. E poi ci sono le tensioni, le preoccupazioni, si ripercuotono spesso sulla delicata fisiologia dell'apparato digerente e noi andiamo a fuoco. Ma per fortuna ci sono tanti modi per spegnere l'incendio. Una cosa che non dobbiamo fare, il professor Gasbarrini l'ha ricordata, è spegnerlo con i farmaci antiacido presi più del dovuto. Ma alcuni metodi sono dolci, o meglio naturali. In linea con noi abbiamo il dottor Avoledo. Buongiorno, bentornato. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno Deborah, buongiorno agli ascoltatori di Cuore Denari. E anche un nostro esperto del Daily Lab, il nostro appuntamento con il benessere, un benessere quotidiano che vi invitiamo sempre ad alimentare come? Con i consigli dei nostri esperti. Quindi andate sulla nostra pagina, trovate il Daily Lab, ma noi che abbiamo in linea il dottor Avoledo vogliamo sapere. Dottor Avoledo. Eccoci, allora è giusto, sì, diceva anche il professor Gasbarrini, lo ricordavate voi, problematiche di tipo digestivo, un occhio alla sfera nervosa, un'attenzione particolare va data sempre, quindi chiediamoci innanzitutto se lo stress non sia troppo difficile da gestire per noi. Beh, in questo questo caso però possono tornare utili una serie di rimedi, ne abbiamo parlato in altre occasioni, che agiscono sulla sfera nervosa. Abbiamo parlato spesso del magnesio, ma oggi in particolare vorrei parlarvi di alcune piante. Sì. È una delle piante più indicate, non so se è in grado di gestire anche i picchi dello spread, ma indicate ci proviamo. Che riguarda gli effetti sullo stomaco, è la melissa. La melissa è una pianta molto giusta per le somatizzazioni dell'ansia, del nervoso, dello stress, quando prendono soprattutto lo stomaco e anche l'intestino, le sì. famose colite nervose. La melissa è interessante perché è proprio una pianta utile nelle quando il nervoso si riverbera su questi organi, sui visceri, e infatti ha delle proprietà di tipo antispastico, miorilassanti, rilassano proprio i muscoli dello stomaco e dell'intestino, e anche un'azione sedativa della sfera nervosa. In più è persino una pianta carminativa, cioè favorisce l'eliminazione del gas nella pancia, la pancia sì, gonfia, la pancia gonfia, dura, che dà fastidio, certo. Esattamente, il meteorismo. Si trova facilmente in tisana, anche al supermercato, vedo, e in questo caso, benché le tisane siano delle forme di preparazione, anche qua abbiamo parlato tante volte, però non sono le più concentrate. Sono un po' blande, diciamo così. Blande. Però qua la melissa ci sta anche in tisana, perché beviamo in questo modo e l'acqua diluisce anche i succhi gastrici, quindi quelli che risalgono nell'esofago, che lo infiammano, e in più l'acqua calda o tiepida ha un'azione vasodilatante dello stomaco e quindi in qualche modo rilassa i muscoli. Quindi andiamo di melissa. Melissa, come se si, no, si, vuole, si può prendere anche in compresso o in capsule, che è ancora più concentrato. Una sola cautela, vista la frequenza con cui ormai si riscontrano persone con problemi tiroidei, specie in caso di ipotiroidismo, la melissa deve essere presa con una certa attenzione, non tanto le tisane che sono blande, ma se si prende le capsule sì, e anche per chi è in cura con farmaci come la levotiroxina sodica, che può dare delle interazioni con la melissa. Niente melissa per me, allora abbiamo capito. Ne troviamo un'altra però. Però allora possiamo usare altri rimedi. Certo, siamo qua ancora apposta. Ancora più gustosi, la melissa sa un po' di limone, la liquirizia cosa mi dite? Ci piace. Ecco, la liquirizia è... Sentiamo se piace anche al professor Gasbarrini. Ok. Le piace, professor Gasbarrini? Bisogna stare attenti a non essere ipertesi, perché alza un po' la pressione, però è un ottimo alimento. Dai, allora attenzione agli ipertesi, ma, dottora Molto Moledo? Vero, molto vero. C'è un costituente in particolare della liquirizia, che è la glicirizina, che è responsabile sia dei benefici della liquirizia, ma anche della sua azione di innalzamento della pressione. E chi già è predisposto non dovrebbe prenderlo. Per fortuna hanno inventato degli estratti che si chiamano deglicirizzati, una parolaccia, deglicirizzinati addirittura, o anche indicati con la sigla DGL, ovvero prive di questa sostanza glicirizina che può innalzare la pressione anteriosa. Ah, quindi insomma, quindi la rendono utilizzabile anche da anche chi da è ipertiso. E si salva l'effetto benefico antinfiammatorio, antispasmodico, cicatrizzante e protettivo delle mucose di stomaco e esofago della liquirizia, perché ci sono altri costituenti della liquirizia che svolgono questa attività oltre alla glicirizina, che è appunto anche quella che però innalza la pressione, e ci sono i flavonoidi, questi sono antinfiammatori, quindi la liquirizia questi può ci essere piacciono. Assunta così. E per chiudere, dottora Voledo, che così facciamo, non c'è due senza tre, abbiamo detto melissa, però la Debora non può prenderla, la liquirizia però, tranne non quella parola tanto. Strana, per chi ha la pressione alta non va bene, troviamo una terza che accontenta tutti e accontenta anche il professor Gasbarrini, che è... Allora vi propongo l'aloe. Dai. L'aloe o l'aloe vera, una pianta ormai notissima, su internet se ne parla pure troppo per i miei gusti, perché la pianta miracolosa in realtà è miracoli. Non esistono. Andiamoci piano, o se esistono non li fa l'aloe. Però due o tre proprietà dell'aloe sono interessanti, oltre a sostenere le difese immunitarie. L'aloe si è visto a fronte di studi scientifici che ha un'efficacia dimostrata come riepitelizzante delle mucose e della pelle. Le mucose sono un po' la pelle degli organi interni, diciamo così, quindi le mucose di esofago e di intestino. Quindi è utile come cicatrizzante, antinfiammatorio dell'esofago, dello stomaco. E come la troviamo in si tutte trova, le formule? Bisogna utilizzare il gel, ma qua spreco 8 secondi per dire che il gel è quello che si estrae dalla pianta, non è che poi in commercio si trova solo il gel, spesso il gel di aloe che si trova in commercio è il gel che si spalma, ma non coincide con la forma di commercializzazione. di preparazione a base di aloe in gel, in realtà poi si trovano come succo, che non è il succo dell'aloe, è il gel fluidificato mediante appositi processi produttivi. Ma non è che dobbiamo mangiare quello che ci diamo dopo le scottature sotto il sole, no? Appunto, quello è il gel preparato come gel. Molto del gel, che è il gel che si estrae dalla pianta, si ritrova come succo o come compresse, tutt'altro che gelatinose, sono trattate in questo modo e così vanno bene. Dottora Voledo, venga presto a trovarci. Ma grazie. Prestissimo. Qua in studio, io intanto la ringrazio, un saluto anche da Deborah. Saluti, buona giornata, arrivederci. Professor Gasbarrini, andiamo con gli ascoltatori. Intanto grazie per le foto che continuate a postare, una veramente più bella dell'altra. Speriamo di poterli accontentare tutti. Andiamo a Fermo, che c'è Maurizio che volentieri ci aspetta. Sai che nelle Marche ci andiamo sempre volentieri. Maurizio, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, fate bene, perché nelle Marche si mangia bene. Bravo, bravo. Lo dica quindi anche al professor Gasbarrini. Non ci sono alimenti che possono dare fastidio al reflusso nelle Marche, nei nostri cuochi. Comunque il mio problema è questo, che io ho il singhiozzo. Quando soffro di reflusso esofageo, mi prende un singhiozzo incontrollabile per ore e ore. Che è fastidioso. Fino allo spegnimento. Come mi metto lungo, seduto? Come mi metto lungo, corto, seduto, accovacciato, arrotolato, professor Gasbarrini. Prendo questi tipi di medicinali. E niente. Niente. Un'altra domanda, ma non ci potrebbe essere, invece di soffrire per tutta la vita questa tribolazione degli interventi, delle plastiche, di qualcosa all'esofago, per non far tornare su questi maledetti, benedetti anche acidi, perché gli acidi servono. Gli acidi servono, ha detto giusto Maurizio. È una tribolazione poverino tutta la vita. Professor Gasbarrini, Maurizio ha fatto due domande con un'unica chiamata. Intanto ricordiamo il nostro numero verde 800 24 00 24. Il singhiozzo può essere considerato un sintomo atipico del reflusso? Prima domanda, prima delle informazioni sul traffico, e poi ci ritorniamo, professore. In qualche modo sì, calcolate che lì a quel livello il nostro organismo recepisce tutti i disturbi che ha e un po' arrivano al nostro cervello provenienti dallo stesso ristretto. Quindi è chiaro che se uno in qualche modo ha una predisposizione per un singhiozzo, il reflusso può attivarlo. D'altronde non dimentichiamoci che il reflusso può anche attivare in alcune persone delle crisi di tachicardia. Per cui diciamo che è una zona molto delicata, ci sono tanti organi in quel punto, no? C'è il diaframma e spesso il nervo frenico è quello che poi ci dà il reflusso, c'è il cuore assolutamente di fianco all'esofago, per cui è una zona molto delicata. Delicata. Sì, e che può attivare sintomi atipici. E noi vi diremo che cosa bisogna fare subito dopo le informazioni sul traffico. Andiamo, alcuni partono ma voi restate. Cuore e denari. Eccoci qua Nicoletta, ritorniamo a parlare dei sintomi d'autunno prima di parlare anche di investimenti d'autunno. Torniamo però ai problemi del reflusso. Professor Gasbarrini, il nostro ascoltatore ci ha raccontato di questo singhiozzo che gli prende, un singhiozzo sfinente. Il singhiozzo infatti è molto fastidioso, le prova tutte, si accuccia, si arrotola, si stende. Ma ci faceva anche una domanda, ma è possibile che non si possa intervenire chirurgicamente? Professor Gasbarrini, si può, mi risponderà lei, ma solo nei casi super selezionati, è vero? Sì, è vero, perché di fondo esistono delle condizioni anatomiche, una l'abbiamo detta prima, avere una voluminosa ernia iatale, no? Un'ernia molto grande, è ovvio che va a alterare in qualche modo l'anatomia di questa giunzione tra esofago e stomaco, portando proprio lo stomaco in alto, dentro, in qualche modo dentro la cavità toracica. In quei casi, se l'ernia è molto importante, molto voluminosa, si può correggere, quindi si può riposizionare lo stomaco nella sua posizione sotto il diaframma, e in quel caso ci sono interventi anche relativamente semplici, se fatti da chirurghi esperti e bravi. Però attenzione, perché in questi casi c'è una manovra molto banale, no? Se la persona ha l'ernia che risponde agli antiacidi, è chiaro che è sicuramente meglio correggere l'ernia che fare tutta la vita una terapia con antiacida che blocca la fisiologia dello stomaco. Però se la persona non risponde all'antiacido, poi fare l'intervento non servirebbe assolutamente a niente. Quindi è chiaro che l'indicazione e l'intervento vanno fatte da operatori, che siano chirurghi o medici, estremamente bravi e capaci. ma questo vale poi per tutta per tutte le cose. Deborah è stata colpita da un SMS di un giovane ascoltatore. Per la verità due. Il primo è Luciano da Roma che ci scrive: ascoltandovi ho fatto questa associazione, forse ho capito la causa del mio disturbo. Dopo la palestra ho acidità di stomaco, è possibile che sia questa a provocare quello che io dico è una sorta di reflusso? Un altro ascoltatore ci racconta di sua figlia che va in piscina e dopo la lezione in piscina si sente questo bruciore di stomaco. Può essere un reflusso causato da questo, professor Gasbarrini? Beh sì, calcolate che quando uno va in palestra a volte fa molti esercizi addominali, no? È chiaro che se tu hai già la condizione predisponente, cioè soffri di reflusso, hai un'ernia iatale, fai molti addominali, aumenti la pressione addominale, puoi aumentare i momenti di reflusso acido nell'esofago. Quindi che non c'è dubbio che se una persona è predisposta a fattori di rischio, alcune attività e anche l'attività di palestra, l'attività fisica sugli addominali può aumentarti il rischio. Quindi professore, non ci sono solamente alimenti che dobbiamo cercare di limitare nella nostra dieta o quasi vietati, ma anche alcuni esercizi, attività fisiche come gli addominali. Se soffrite di reflusso, buttate giù la pancia, ma non fate gli addominali. Un po' diciamo questo è il messaggio. Il messaggio giusto è questo, però attenzione, non è che uno poi deve mascherarsi e non fare gli addominali, mangiare quello che vuole, cioè il concetto vero è rimettiamo a posto il nostro esofago e lo stomaco e poi facciamo con grande serenità gli addominali. Professor Gasbarrini, io la saluto e la ringrazio per essere intervenuta a Cuore Denari. Arrivederci a lei e arrivederci a tutti. Buona giornata. Buonissima giornata. E Deborah? E noi si continua. Eh sì, adesso parliamo di un altro tipo di reflusso che ha fatto venire il mal di stomaco e un po' il sangue amaro a moltissimi negli ultimi due anni. Adesso la situazione è un po' più tranquilla. Sentiamo. Green Network Luce e Gas ti fa risparmiare davvero. Finalmente la buona notizia. Vi presenta Salva Danaio. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano. Deborah, non ti... perché questa entrata così nazional popolare? Questa non te l'aspettavi, non te l'aspettavi. Sì, diciamo che Toto Cutugno un po' adesso ha un grande successo in Russia, fa bravissimo. Altro, bravissimo, anche un bell'uomo per carità, però non è più nostro genere, diciamo. Allora, abbiamo scelto questa canzone per accompagnare un'operazione di mercato molto importante e anche un po' patriottica, perché in effetti è stata un po' anche definita così. Parliamo della quinta emissione di quello che è chiamato BTP Italia. Per chi non lo conosce, vi spiegheremo che cos'è questo strumento di investimento. E allora, avete sottoscritto questo titolo nelle scorse emissioni? Pensate di farlo questa volta? In generale, vi affidate ai titoli di Stato? Trovate sicuro e conveniente questo investimento? Che dubbi, che domande avete? 800 24 00 24 per chiacchierare con noi e soprattutto per fare le vostre domande a Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazionario di Borsa Italiana. Buongiorno. Buongiorno a voi. Poletto, quando lo spread è andato a 570 punti base, un po' di reflusso è venuto anche a lei, eh? Però possiamo dire che questo è un prodotto nuovo, una modalità di distribuzione nuova, per cui la canzone un po' agé di Toto Cutugno direi che non calza perfettamente. Non l'ha trovata pertinente. Ma allora, già sgridato, scusi, Poletto. No, ma allora lei che cosa avrebbe messo, Pietro Poletto? Beh, qualcosa di un pochino più innovativo. Ma tipo? Con i tempi. Ad esempio? Mi coglie impreparato, però prossimo BTP Italia siccome... troveremo una colonna sonora. Dai, esatto, chiediamolo anche ai nostri ascoltatori. Perché no? Insomma, che canzone associereste al BTP? Se ci sente Maria Cannata, Poletto, ci licenzia me e a lei stamattina. No, però possiamo fare l'inno tricolore. Un inno di Mameli, diciamo, andiamo sul sicuro, sul tradizionale. Assolutamente. Allora, questa è la proposta di Pietro Poletto. Esatto, per le altre 800 24 00 24, ma anche per le domande pertinenti al tema di cui parliamo oggi, ma se volete invece anche sbizzarrirvi sul tema della canzone al BTP Italia, scriveteci insieme alle vostre foto sull'autunno, che sono tantissime e meravigliose, scriveteci su Facebook. Mandate anche qualche foto bruttina, perché sennò noi come facciamo andiamo a scegliere? In crisi. Oltretutto ci sono anche un po' subdoli qualche ascoltatore che ci scrive: siete bellissime, simpaticissime, no, eccetera. Quella non quello non vale. Pietro Poletto, torniamo a noi. Domani allora si ricomincia con il BTP Italia, quinta emissione. Intanto spieghiamo subito la novità di questa operazione, perché teoricamente la possibilità di sottoscrivere il BTP Italia va da domani all'8 novembre, ma voi vi siete, avete predisposto una clausola di riserva quest'anno. Perché? Ma non è che ce la siamo imposta noi, il Ministero del Tesoro che ha deciso di inserire una clausola di chiusura anticipata, per cui alla facoltà, qualora ci fossero richieste molto elevate, come è successo nelle ultime due precedenti operazioni, di chiudere anticipatamente il collocamento. Questo è dovuto al fatto che evidentemente, come la dottoressa Cannata in più di un'occasione ha detto, la scadenza 2017 è una scadenza già abbastanza impegnativa, per cui la possibilità di chiudere anticipatamente è quella di non appesantire ulteriormente con un ammontare molto elevato anche di questa tratta. Non avete però stabilito una cifra, non è che se arrivano 20 miliardi domani alle 14 o mercoledì alle 14 si chiude, non c'è una cifra già identificata. Non c'è una cifra. Quindi chi ha tempo non aspetti tempo, perché rischia di arrivare in ritardo e quindi... Quindi Poletto, insomma, meglio sbrigarsi per chi vuole sottoscriverlo, non aspettare. Allora, io penso che ovviamente chi, al momento che l'operazione è stata annunciata già da qualche settimana, per cui penso che gli investitori, se sono interessati, abbiano già fatto le loro valutazioni, per cui non aspetteranno l'ultimo momento. Allora, nelle altre emissioni ricordiamo che questa operazione ha raccolto 44 miliardi di euro. Abbiamo spiegato che questa potrebbe chiudersi in anticipo. Ricordiamo molto rapidamente, dottor Poletto, le caratteristiche di questo titolo, a parte quelle più note: durata 4 anni, un premio fedeltà per chi lo detiene fino alla scadenza, ma soprattutto il rendimento, come si calcola? Beh, intanto è una... siamo in attesa della comunicazione a brevissimo della cedola minima garantita, che si assommerà poi all'inflazione semestrale maturata italiana. Questa di fatto è la caratteristica del BTP Italia, che è un'indicizzazione all'inflazione italiana. I principali altri prodotti che ci sono sul mercato erano indicizzati all'inflazione europea, per questo storicamente l'inflazione italiana è leggermente più alta rispetto a quella europea, per cui questo per l'investitore italiano è sicuramente un meccanismo di protezione del proprio capitale, è molto interessante. Dottor Poletto, siccome dobbiamo dire ancora altre cose su questa operazione, le va di rimanere con noi anche nella seconda parte del programma? Ricominciamo intorno alle 12:10. Qualche altro minuto ce lo concede? Perfetto, vi aspetto. Perfetto. Cuore e denari. Italia sì, Italia no, Italia pum. La strage è impunita, puoi dir di sì. È la terra dei cachi, la colonna sonora per la quinta emissione del BTP Italia, quella che i nostri ascoltatori ci hanno segnalato al 349-238-6666. Quindi questa vince, tra virgolette, ma vanno anche forte. Hai letto anche tu, altri Non tengo di nero, Che sarà dei ricchi e poveri, Hotel California, vorrei proprio capirla. Comunque Pietro Poletto, responsabile del mercato obbligazione di Borsa Italiana, siamo un po' più moderni adesso nella scelta? Sì, però, come dire, rimarrai fedele a Lino di Mamele o all'alternativa alla... Benissimo, allora, insomma, abbiamo voluto scherzare un po' su un'operazione che invece è piuttosto seria, molto seria, perché domani si apre il collocamento per la quinta edizione del BTP Italia. C'è tempo per sottoscrivere questo titolo di Stato da domani fino all'8 novembre, ma attenzione, se il Tesoro decidesse che l'ammontare che viene fissato tra domani e dopodomani appunto è sufficiente per le proprie esigenze, l'operazione si chiude prima, Nicoletta. Però a me piacerebbe chiedere un consiglio anche al mio professore, perché se no cosa vado a fare a scuola di risparmio se poi non ho il professore che mi dice questo sì, questo no. È davvero, ad esempio, una buona cosa per un piccolo risparmiatore? Certo, a chi lo vuoi chiedere? Ma naturalmente al mio maestro, non so se chiamarlo maestro, professore, insomma. In linea con noi abbiamo il nostro dottor Lupotto, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno a tutti. Eccola qua, che abbiamo fatto... Come devo chiamarla? Maestro, professore, Gianni Lupotto, dottor Lupotto? Non importa. Non importa. Senta, il nostro consulente sui temi di risparmio e di investimento. Ma quali sono gli importi minimi? Io posso comprare anche 100 euro di BTP, lei me lo consiglia? L'importo minimo è 1000 euro anzitutto, ecco. E i tagli, i multipli sono 1000 euro, quindi un investimento abbastanza... Quindi 1000-2000, non 1000-1500. Esattamente. Quindi dai 1000 in su. Allora, abbiamo spiegato prima con Pietro Poletto anche come sarà calcolato il rendimento, appunto, e le cedole di questo nuovo titolo di Stato. Ricordo ancora, è il quinto, ma direi di soddisfare anche subito le domande dei nostri ascoltatori all'800240024. Ci sono Claudia da Roma, Irene da Milano, le nostre amiche ascoltatrici, e poi andiamo ad Angelo dalla provincia di Pavia. Perfetto. Precedenza Claudia. Benissimo. Eccomi qua. Buongiorno Claudia. Buongiorno. Perché mette proprio peraltro il dito in una bella piaga che conosciamo molto bene, Claudia. Buongiorno a lei. Sì, guardi, io sarei tentatissima ad acquistare un po' di PTP perché, insomma, grazie a Dio ho una pensione che mi consente di avere un pochino di risparmio, di sì, mettere da parte un qualche po' di soldino. Oh, però questo, quando vado in banca, mi disincentivano perché mi vogliono dare per forza i loro prodotti, che poi sono sempre polizze e obbligazioni bancarie. Ah beh, già tanto che le diano anche i fondi, perché per un bel periodo non hanno voluto distribuire neanche quelli, Claudia. Devo dire che questa qui me li dà. Ora, c'è un fatto che io prima, quando ero più giovane, facevo gli investimenti da sola, capivo quanto spendevo per comprare i bot, quanto guadagnavo alla fine, adesso non capisco più tanto. Claudia, noi siamo qua per lei, naturalmente, e oltretutto, se non riuscissimo a soddisfare con la nostra risposta la sua richiesta, ci scriva e magari le faremo fare anche una come dire, consulenza un pochino più dettagliata. Detto questo, però, Pietro Poletto, io ho detto prima, abbiamo girato il coltello in una piaga perché voi questa situazione la conoscete bene. Quando si va in banca, prima che ci possano permettere di sottoscrivere un titolo di Stato, insomma, ci tentano di convincere, appunto, chiaramente, a sottoscrivere qualcos'altro. Almeno questo è successo fino a quando le banche hanno avuto grossi problemi per fare raccolta. Questo adesso non è più poi così, eppure ci provano. Poletto, come dire, il mercato è libero, ognuno prova a vendere i propri prodotti. Il grosso vantaggio del BTP Italia è che non c'è bisogno di andare in banca per sottoscriverlo, si può sottoscrivere online tramite il proprio home banking senza nessun tipo di, come dire, consulenza. Però ecco, ha ragione, da quello che abbiamo capito, sì. Claudia è una, come dire, piccola risparmiatrice tradizionale, no? Preferisce il contatto con l'impiegato di banca o con il consulente di banca. Beh, questo, come dire, se la signora ha deciso di comprare BTP Italia, non fa altro che andare in banca e dire, insiste un po', ecco, infatti. Ecco. Detto che comunque vorrei anche precisare che da questa trasmissione non è che stiamo facendo uno sponsor al BTP Italia piuttosto che l'obbligazione bancaria. Raccontiamo quello che succede, perché comunque è anche situazione nota. E sentiamo che cosa ci racconti Irene, ci chiama da Milano. Buongiorno, benvenuta. Grazie tante. Io vi racconto una cosa che mi lascia un po' perplessa. Cioè, io ho un deposito amministrato che contiene unicamente titoli di Stato. Sì. Ora, nella finanziaria precedente hanno applicato un prelievo forzoso. Adesso, nella finanziaria del governo Letta, ho sentito che questo prelievo aumenta. Sì. Ma a me sembrerebbe corretto che la cosa venisse pubblicizzata e che quando si dice questo BTP te lo vendo con un rendimento netto di tot, questo prelievo fosse calcolato, perché il piccolo investitore non ci capisce più niente. Cosa gli rende il titolo che compra? Irene. Oltretutto, questo è stato fatto su titoli comprati in precedenza, quindi un contratto che lo Stato ha stipulato con me adesso va lì e mi preleva parte del rendimento che mi ha garantito. Irene. Io la cosa la trovo veramente ingiusta, ingiusta per utilizzare un termine naturalmente anche così non è troppo forte. Allora, Pietro Poletto, andiamo ad un altro tema. Lei dice, adesso non è chiaramente Borsa Italiana che magari deve farlo, forse il Ministero dell'Economia potrebbe essere più chiaro su questo e fare anche delle simulazioni, no? Sia di rendimento ma anche di spesa, perché qua non è una commissione che applica la banca, quella alla quale Irene fa riferimento, ma è la mini patrimoniale dello Stato che ha, appunto, che sta chiedendo lo Stato. Che ne pensa di quello che dice Irene? Adesso relativamente limitiamoci a quanto definito il BTP Italia, perché sennò qui andiamo ad aprire ovviamente discussioni che non basterebbe il 12 puntate. Una stagione di cuore denari, diciamo così. Tutto l'autunno. Il tema relativamente a questo prodotto, come altri prodotti, ma in particolare a questo che evidentemente ha un target definito nell'investitore retail, il Ministero del Tesoro, tramite il sito del Ministero stesso, ha reso disponibili delle schede molto semplici proprio per facilitare il calcolo del rendimento con delle simulazioni. In più, la novità che c'è da questa operazione, ci sono anche delle sorte, delle videoguide con persone proprie del Ministero che vanno a illustrare i vari dettagli del funzionamento dell'operazione. Poi è ovvio che è un po' il ruolo di Borsa Italiana, ma come penso il Ministero sia quello anche di migliorare la comunicazione e migliorare l'informativa, per cui questo è un tema che ci vede assolutamente. Certo, magari ecco, ad Irene possiamo chiedere, però siccome anche l'intermediario conoscerà tutti gli oneri che devono essere applicati ad ogni operazione di investimento, magari che insista un po' anche con il proprio consulente per farsi dare informazioni precise su questo. Poletto, sul BTP Italia che parte domani abbiamo detto tutto? Cioè, però. Ovviamente è importante che l'investitore, come su qualsiasi operazione finanziaria che va a fare, faccia le proprie valutazioni per avere una corretta diversificazione del proprio investimento e del proprio gestione del proprio portafoglio. Grazie a Pietro Poletto, con il quale probabilmente ci sentiremo anche nelle prossime due o tre giornate per capire un po' questa operazione come si è conclusa. Adesso ti lascio nelle mani del di Gianni mio Lupotto. Dottor Eccoci. Lupotto, allora io le ho raccontato quasi tutto di me, adesso tocca a lei a parlare. Sì, adesso dobbiamo cominciare a costruire qualche portafoglio, magari indirizzato al suo profilo e magari a quello di altri ascoltatori che si riconosceranno. Che si riconosceranno. Ricordiamo che eravamo partiti magari da questo capitale iniziale di 10.000 euro. 10.000 euro, avevamo in mente un obiettivo, un primo obiettivo di breve termine, diciamo, un master per una delle figlie che andrà a laurearsi nei prossimi anni e uno un pochino di più lungo periodo. Che potrà essere affrontato non solo con il capitale iniziale, ma con i risparmi che via via si metteranno da parte perché lei ha dichiarato una capacità di risparmio. Il profilo di rischio però è contenuto, vero? Il profilo di rischio, diciamo, in realtà dalle domande, dalle risposte che lei mi ha dato non è risultato così contenuto, però noi consulenti siamo abituati a distinguere fra quello che un cliente dice e poi quello che un cliente prova e fa, perché si dice magari di poter accettare un rischio un po' più ampio e poi alla prova dei fatti siamo poi tutti uguali. Al minimo stormir di fronte magari uno si preoccupa della perdita temporanea. Ma chissà se ti ha messo il BTP Italia nel tuo portafoglietto. Parli, maestro Lupotto. Sì, l'ho messo, quindi ho preparato un primo investimento iniziale, ne faremo faremo delle altre simulazioni. Questo primo presuppone di investire tutti i 10.000 euro immediatamente. Sì. Quindi dobbiamo valutare sia il profilo di rischio sia la situazione dei mercati. Allora, avrei previsto di mettere il BTP Italia per 3.000 euro di nominale, naturalmente volendo fare le cose di fino, valutando il tasso minimo che ancora non sappiamo e confrontandolo con i BTP già in emissione, con i BTP Italia già in circolazione. Comunque diciamo 3.000 euro di nominale, poi diremo la prossima settimana quale abbiamo preso. Sì. E poi rimangono 7.000 euro che in questo momento investirei in modo diversificato in ETF di tipo obbligazionario. L'ETF, già ci siamo, che io non so che cosa sia, e quindi magari anche qualcuno dei nostri ascoltatori non sa. Cos'è questo ETF? Anche perché, guarda, ti racconto proporre una cosa, che sono nati una decina di anni fa e i primi strumenti di investimento di questo tipo erano molto semplici, poi ovviamente con anche in linea quello che è accaduto sui mercati finanziari sono diventati molto complessi e molto sofisticati, dottor Lupotto, e qualche volta anche un pochino costosi, anche se sono più convenienti dei fondi di investimento. Sì, è proprio così e quindi direi che per questa prima volta magari spieghiamo quelli più semplici, poi ci complicheremo la vita dopo, andando avanti. Ecco. Allora, l'ETF sostanzialmente, anzitutto cosa vuol dire l'acronimo? Vuol dire Exchange Traded Fund, cioè vuol dire un fondo che viene negoziato in borsa. Non è nient'altro un paniere di titoli, chiamiamolo così, che consente all'investitore di prendere posizione su un certo numero di strumenti finanziari sul quale sarebbe difficile investire direttamente per via del piccolo capitale a disposizione per investire. Quindi, ad esempio, un ETF che investe in titoli governativi area euro a breve medio termine, che è uno di quelli che avevo selezionato, previsto per me. Esatto, consente con 1.000 euro, 2.000 euro di investire in una pluralità di obbligazioni governative in area euro, 50, 60, 70, 80, perché è lo strumento che si preoccupa di distribuire l'investimento su tutti gli strumenti sottostanti. Questo garantisce che cosa? La possibilità di investire in maniera più diversificata, che è la prima raccomandazione che noi diamo a chi ha un capitale limitato. Certo. Beh, limitato, insomma, 10.000 euro. Esatto, in tempi attuali non sono poi pochini. Senta, l'ETF in titoli governativi area euro a medio e breve termine, 2.000 euro. Altri 2.000 lei suggerisce di metterne in un ETF che investe in titoli corporate a breve termine. Qua andiamo sul complicato, che cos'è un titolo corporate? A differenza di un titolo governativo che è emesso da uno Stato, il titolo corporate invece è emesso da un'azienda, quindi non è nient'altro che uno strumento di debito anch'esso, ma il responsabile del rimborso di questo di questa obbligazione è un'azienda e non uno Stato. Non è detto che siano più rischiosi, infatti questi titoli corporate sono di questo ETF sono di tipo investment grade. Tra l'altro, Lupotto, se non mi ricordo male, se un investitore volesse investire in un'obbligazione societaria dovrebbe spendere molto di più perché i tagli sono molto più alti, invece con l'ETF magari ecco. Abbiamo quel vantaggio anche in questo caso e quindi qui abbiamo previsto 2.000 euro. In realtà questi due investimenti sono, chiamiamoli un po', investimenti di passaggio, perché in questo momento i tassi sono abbastanza bassi e quindi ho preferito inserire in questi strumenti che sono di breve e medio termine in attesa di capire l'evoluzione. Mentre invece il terzo ETF che ho previsto in portafoglio è un investimento un pochino più rischioso, un pochino più dinamico, che si presta per l'obiettivo di più lungo periodo che ci aveva detto Nicoletta, e cioè un ETF che investe in titoli obbligazionari corporate, ma questi qui ad alto rendimento. Questo ad alto rendimento mi piace. Ti piace? Sì. Tra l'altro Lupotto, ci autorizza a mettere su Facebook questo portafoglio da 10.000 euro appunto che abbiamo associato a Nicoletta Carbone, ma nel quale potrebbero identificarsi magari molti altri ascoltatori per capire che cosa ne pensano? Assolutamente, così raccoglieremo. Certo. E se vogliono anche proporci la loro versione, certamente, argomentandola quindi non così, come dire, suggerimenti a caso, ma non come la colonna sonora, perché ad esempio ci sono anche ascoltatori che poi leggeremo, no, perché il nostro ospite Poletto ha detto non mi piace questa canzone. No, no. Invece e poi alla domanda ma quale metterebbe uno si sono scatenati. Per questo portafoglio investito da 10.000 euro, Lupotto, Nicoletta Carbone, quanto spende andando in banca? Ecco, bravo. Ecco, noi abbiamo simulato l'acquisto e quindi poi daremo l'esito di questo simulato acquisto utilizzando una banca online. Perché una banca online? Perché ci consente di avere commissioni ridotte. E noi abbiamo utilizzato lo 0,19% con un minimo di 2,95 euro per transazione, quindi in questo caso si andrebbero a spendere per questi tre ETF circa 3 euro per ogni ETF acquistato, quindi una commissione molto bassa. Quindi è molto bassa, però insomma magari siccome uno non lo sa quando fa un investimento devi sapere, Nicoletta, che ci sono anche un po' di spese da sostenere. Ecco, e questo è il caso anche dell'ascoltatrice che abbiamo sentito prima, che è molto affezionata alla se fosse andata direttamente in banca invece, Nicoletta, Lupotto, sarebbe cambiato qualcosa in termini di oneri da sostenere per questo investimento? Le commissioni sono più alte, sono dell'ordine dello 0,30, alle volte anche 0,40%, si può anche andare più su. È chiaro che si può sempre tentare di negoziare le condizioni che la banca fisica in questo caso ci applica, tuttavia bisogna dire che è più facile ottenere commissioni più basse utilizzando le banche online. Quindi, dottor Lupotto, lei oltre ci insegna a investire, ci insegna anche, per chi magari è un pochino più imbranatino, a usare la banca online. Ecco, quindi noi impariamo due cose con lei. Sì, sì, possiamo poi dare spiegazioni pratiche su come si fa ad aprire un conto corrente online. Sicuramente. E anche come inserire questi ordini. Allora, sai che questo professore me lo stanno già invidiando in molti. Ma non ho nessun dubbio su sono questo. Sono fiera di lei. Allora, ci sono Lupotto. Due ascoltatori che volevano intervenire, non ce la facciamo a raccoglierli, ma le dico io magari molto rapidamente, Lupotto, le osservazioni che ponevano. Angelo voleva sapere da Pavia se l'intestazione del BTP Italia può essere fatta a tre persone oppure deve essere fatta solamente ad una. No, in realtà il BTP Italia non è un titolo nominativo, è un titolo al portatore, quindi viene inserito sul dossier sul quale viene comperato, ma è considerato un titolo al portatore, quindi se per esempio il conto è intestato a due persone è considerato al 50% per ciascuno. Roberto invece contestava un po' un investimento da 10.000 euro segmentato in questa maniera, perché dice aumenta i guadagni solo per le banche che prendono più commissioni, ma appunto Lupotto ha suggerito gli ETF che invece hanno oneri più bassi. La settimana prossima, Nicoletta, sai di che cosa parliamo? Di PAC. PAC. Già, la sigla l'ha imparata Lupotto, dobbiamo andare poi ai... ETF. No, vabbè, le CAC. Mi sembra di imparare una lingua straniera, ma ce la faremo. Parleremo del piano di accumulo per Nicoletta Carbone. Lupotto, grazie per essere stato con noi. Buona settimana. Grazie. A presto. Arrivederci alla prossima. Arrivederla, professore. Diamo anche lo stop al gioco di oggi. Stoppatevi. Mamma mia, quante foto sono arrivate, tutte meravigliose. Ruberò un po' di biglietti alla nostra azienda per regalarle di nascosto, e regalarli di nascosto ai nostri ascoltatori. Ma è tempo di andare, grazie. Sì. A domani. A domani. Cuore e denari.